Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Un saluto da Maurizio Melis, benvenuti a questo speciale Smart City. Parleremo di lotta al dissesto idrogeologico. Come ogni anno, lo scorso 13 ottobre si celebrava la giornata internazionale per la prevenzione dei disastri naturali. In quelle ore Genova e i suoi abitanti combattevano contro l'ultima di una lunga serie di alluvioni. La cronaca di quei giorni ha messo in scena l'ennesima girandola di accuse, critiche, ritardi, mancati allarmi. Insomma, un film già visto, anche trito e ritrito, a cui rischiamo di abituarci, anche perché la frequenza di questi fenomeni sembra destinata ad aumentare in futuro, complici il cambiamento climatico che modifica il regime delle precipitazioni e la mancanza di freni al consumo di suolo che sostituisce aree verdi e capaci di assorbire e trattenere l'acqua con superfici cementificate e impermeabili che amplificano gli effetti distruttivi delle precipitazioni più intense. Ma tutto questo noi italiani lo sappiamo bene, da anni è chiaro che i primi posti tra le priorità nazionali ci sono la lotta al dissesto idrogeologico, con interventi preventivi come la manutenzione degli argini dei fiumi e la messa a punto di piani per reagire prontamente quando, prevenzione o no, il fattaccio si verifica. Ciò nonostante si è fatto pochissimo al riguardo e le montagne di polemiche che si scatenano all'indomani di ogni emergenza lo testimoniano plasticamente, diciamo così. Eppure oggi la tecnologia mette a disposizione strumenti nuovi molto sofisticati, inimmaginabili pochi anni fa, che consentirebbero da un lato di concentrare la prevenzione sulle situazioni più critiche e dall'altro di affrontare le emergenze con tutta un'altra tempestività e capacità di reazione. Tecnologie di cui abbiamo raccolto vari esempi nel corso della programmazione di Smart City. Per capire di cosa stiamo parlando, facciamo allora un salto indietro di pochi mesi. Andiamo a Genova nella notte tra il 9 e il 10 ottobre, giorno fatale per il capoluogo ligure, che registrerà il record di 395 mm di pioggia in 24 ore. Ebbene, ecco l'assurda sequenza di comunicati da parte degli enti preposti alla vigilanza meteo che hanno contrassegnato quelle ore. Sentite. Giovedì, ore 18.50, tweet della Protezione Civile genovese con cui annuncia che alle 19 sarà disattivato il numero verde del Servizio di Protezione Civile. Era stato istituito dopo la precedente alluvione nel 2011. Ore 22.20, comunicato dell'ARPA Ligure. Dopo indebolimento, perturbazione riprende forte vigore. A rischio Polcevera, Bisagno, Trebbia, Scrivia. Ore 23.02, attraverso Twitter e Facebook, la Protezione Civile, tornata finalmente online, informa: attenzione, forti temporali, massima prudenza in tutta la Val Bisagno. L'appello viene spedito anche a 30.000 cittadini genovesi via SMS. Ore 23.30, l'ARPA della Regione Liguria lancia l'allarme: ancora forti piogge, Bisagno prossimo all'esondazione. Proprio in quegli stessi minuti, il Bisagno usciva dagli argini. Solo alle 11 del mattino di venerdì 10 ottobre il bollettino dell'ARPAL proclamava l'allerta 2, il massimo livello d'emergenza, mentre la città era coi piedi nel fango da ore. Come è stato possibile tutto questo? Chiaramente più di qualche meccanismo si è inceppato, ma ci sono anche delle attenuanti. Infatti, alluvioni come quella di Genova si verificano in bacini idrografici di piccolissime dimensioni a causa di precipitazioni intense e molto localizzate che sono difficilissime da prevedere e con tempi di sviluppo delle piene dell'ordine di qualche ora o anche meno. In situazioni come queste, a fare la differenza è la capacità di acquisire i dati delle precipitazioni in tempo reale e con un dettaglio geografico molto elevato. Insomma, bisogna fare tantissime rilevazioni e bisogna farle in fretta. Per riuscirci, ci si affida tipicamente a degli speciali radar meteorologici, poco diffusi in Italia, anche perché si tratta di infrastrutture costose. Ma di recente è emersa una soluzione alternativa di cui abbiamo parlato. Si chiama Smart Rainfall System ed è stato ammesso appunto da una startup, DARTS, in collaborazione con l'Università di Genova. Ne abbiamo parlato con Andrea Caridi, Business Development Manager di DARTS. Sentiamo. Questo sistema si basa su un concetto estremamente semplice. Chi di noi non si è mai trovato a guardare la televisione e vedere sparire la partita nel momento magari del gol proprio perché fuori sta piovendo? Ecco, questo è l'uovo di Colombo dal quale noi siamo partiti per sviluppare Smart Rainfall System. Cosa succede? Quando piove, il segnale satellitare, quindi quello ricevuto dalle comuni parabole che abbiamo sulla nostra testa,